YouTube di Marta Cagnola e Daniele Bellasio. Oh, buonasera, buonasera. Dunque, questa puntata non è detto che arrivi al fondo, perché forse per la prima volta io sono in funzione di bravo conduttore, quindi devo con un occhio guardare il tempo che passa fino al traffico, poi parte la musica. Mentre, come sapete, Marta Cagnola è in un posto molto più bello e più con una colonna sonora più piacevole del mio, perché è a Sanremo. Quindi questa volta è Marta Cagnola al telefono, io sono in studio in questa funzione del tutto naturale per me di bravo conduttore. Marta, ci sei? Ci sono, non sono al telefono, sono qui con te, guarda, sono nella sala stampa del Festival di Sanremo, esattamente collegata con te, ti tengo compagnia, stavo ascoltando per capire se stavi facendo davvero il bravo conduttore. Te la stai cavando? Me la sto cavando, dunque ho già perso però il conteggio che qua va velocissimo. Allora, ma vuoi sapere qualcosa o subito parliamo? No, perché non è che esiste solo Sanremo, eh? Come non esiste solo Sanremo? Cioè, ci sono altre cose nel mondo? No, allora, intanto partiamo con il fatto che questa settimana si è parlato tantissimissimissimo, già cambio la scaletta, di un video. Ora devi sapere, sì, devi sapere che tutta questa settimana si è parlato di un video che riguarda una partita. Tu sai che l'Inter è successo questa cosa spiacevole, no? Che a Torino ha perso. No, non lo sapevo, perché hanno comunque giocato a calcio. Ok, ok. Sì, allora, ma la cosa che ci riguarda più da vicino, non soltanto questioni di cuore legate ai colori amala, ma anche il fatto che c'è di mezzo un video. Tutta la polemica della settimana è stato uno scoop della Gazzetta dello Sport, che ha visto in sostanza che a un certo punto, non so come spiegartelo mentre sei lì, non si può mandare il video perché era tutto rumoroso. E allora me lo allora, devi praticamente spiegare tu per bene. Ecco, cioè Chiellini, invece di battere la punizione, praticamente la passa a Icardi. Icardi sta per segnare, però l'arbitro dice che in realtà non aveva battuto la punizione e la fa ribattere. Allora tutto lo scoop sta nel frame, nei pochi frame di quei video che non sono stati mandati in onda, capito? La polemica, non sono stati mandati in onda perché allora la regia è filo juventina e allora di qua, allora... E poi c'erano state polemiche altre sui rigori. Ti sento molto interessata, però no, sto cercando di capire, ma allora non è stato mandato in onda, però queste immagini ci sono e sono diventate virali, sono diffuse dopo. Brava, allora il complotto, non il complotto. Cioè, quindi, scusa Daniele, ma una sorta di moviola elettronica posteriori, non vale? Brava, hai trovato la definizione, una sorta di moviola posteriori del video incriminato. È un video non andato in onda, per la prima volta a RadioTube noi non mostriamo un video non andato in onda. Censura, poteri forti. Brava, a proposito di censura, mi dai l'assist per voltare pagina. Un'altra delle cose che succede, si parla molto di Roma, più di Sanremo, Ma più di Sanremo, di Roma. Ah, fuori da Sanremo sì, si parla di Roma, perché ancora? Cosa è successo? Successo di tutto, no. Non fai a tempo a stare dietro a quello, interrogatori, polizza vita, la stampa, l'elenco dei giornalisti antipatizzanti del Movimento 5 Stelle secondo il vicepresidente della Camera, cosa anche abbastanza grave, consegnata all'ordine dei giornalisti, e soprattutto per la prima volta un caso di dimissioni respinte con riserva. È una cosa un po' strana. Allora spiegami. Io ero a Sanremo, sì, sono a Sanremo, sì, vedevo twittare quella sera lì e tutti mettevano l'hashtag con riserva e io, ecco, mi sono fidata sulla parola, ma perché non capivo perché l'hashtag con riserva, anche in maniera così, no, ironica, sto guardando Sanremo con riserva, perché? Allora sei la brava conduttrice anche da lì, perché senti. L'assessore era effettivamente mortificato per quello che ha detto. Ha rassegnato le dimissioni, che io ho respinto con riserva. Quindi nega che ha detto quelle cose, si è scusato. Non... Scusi, lo ripeto, forse non sono stata chiara. Si è scusato davvero con, non so, la cenere in capo, i ceci sotto le ginocchia. Ecco, questo ha fatto, si è scusato. Allora, l'assessore Verdini si è scusato perché è uscito un audio, anzi prima era un'intervista, diciamo frasi, dichiarazioni raccontate dal giornale La Stampa, che peraltro compie 150 anni, auguri, come noi 2 anni fa. Auguri, auguri, auguri. E niente, dove diceva che la Raggi insomma non è proprio preparatissima, poi ha spiegato che intendeva che tutti sono impreparati rispetto al disastro di Roma e ha offerto le proprie dimissioni al sindaco Raggi, che le ha respinte con riserva. Quello che ha fatto un po' ridere la rete è questo fatto del con riserva. Ma la Raggi... Quindi la prossima volta che io ti mando a quel paese... Io ti mando a quel paese con riserva. Ma non farlo. Ma guarda, da distante ci vogliamo così bene. Ma no, ma con riserva. Allora, io ti voglio così bene, quasi quanto la Ferilli vuole bene alla Raggi. Ascolta. Si deve fare, ma rispettando quello che c'è da rispettare. Fa bene l'amministrazione ad essere attenta e severa su tutti i problemi. Sono viabilità, speculazione. Quindi ha ragione Totti o la Raggi? Ma io credo che tutte e due siano sullo stesso punto di vista, cioè hanno lo stesso punto di vista, uno dice lo stadio e l'altra fa l'amministratrice e quindi dice vediamo come e quando. Senta, cosa pensa della Raggi, di quello che sta succedendo? A me piace tantissimo, non sta succedendo niente, a me piace moltissimo la Raggi. Basta. Ma c'era un filo di ironia? No, era sincerissimo. Ah, okay. No, perché sai, io non ho visto il video, lo sto vedendo alla radio, mi devi spiegare. Allora basta, basta, parliamo di Sanremo. No, bene. Parliamo di Sanremo, dunque c'è Eddie, no? Ci sarà. Va bene, cioè, parliamo di Sanremo e hai ragione, c'è il nostro esperto preferito e questa volta è accanto a me, Eddie Anselmi. Ciao Eddie. Ciao Marta, ciao Daniele, ciao a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio 24. Allora Daniele, io approfitto della presenza qui del nostro super fanta mega esperto del Festival di Sanremo perché gli ho chiesto di preparare un quiz, hashtag non si vince niente, cioè non è che vincete qualcosa se azzeccate, però voglio mettere alla prova la tua e la conoscenza di Sanremo degli ascoltatori. Adesso faccio fare delle domande a Eddie. Poi lo ritroviamo alla fine di RadioTube, all'ultimo blocco di RadioTube, così parliamo anche un po' di cosa gli è parso di questo Festival di Sanremo e vediamo se tu sai rispondere e se i nostri ascoltatori nel frattempo sanno rispondere, hashtag non si vince niente. Allora Eddie, le domande alle quali deve rispondere Daniele a RadioTube sulla storia del Festival di Sanremo. Allora, qual è il performer più giovane ad avere mai vinto il Festival di Sanremo? E qual è il performer, l'artista più anziano ad avere mai vinto il Festival di Sanremo? A chi deve rispondere? Ok. No, allora hai il tempo di pensarci. Ah, ma devo rispondere io? Fino alla fine del Festival di Sanremo, ma magari anche qualche ascoltatore sa rispondere. No, speriamo che qualche ascoltatore mi aiuti. Non so, io direi più giovane. Non devi rispondere adesso. Parli alla fine della trasmissione. Meno male, così abbiamo ancora altri quiz. Abbiamo ancora altri quiz. Vai. E allora, già che parliamo di età, qual è il performer più giovane a essersi mai esibito in concorso al Festival di Sanremo? Diciamo, sia come cantante solista e sia come parte di un gruppo. Sono due persone diverse. Anche questa è bella. Io però forse questa qualche idea ce l'ho. Hai ancora una domanda, Eddie? Qual è l'unica canzone in lingua francese che sia mai stata presentata in concorso al Festival di Sanremo? Canzone in lingua francese, questa è strana, Daniele. Carla Bruni sarà, Carla Bruni. Carla Bruni in concorso. In concorso, tra i big. Ah, o gara unica. No, ma è che lui, Carla Bruni, poi è obnubilato. Allora, Daniele, io ti lascio riflettere. Google. Ritroviamo Eddie all'ultimo blocco di RadioTube con le risposte, va bene? Benissimo, benissimo. Lanci tu il traffico? E adesso credo traffico davvero. Adesso il traffico davvero, sì, a tra poco. L'assessore era effettivamente mortificato per quello che ha detto. Ha rassegnato le dimissioni, che io ho respinto con riserva. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. YouTube. Allora, bentornati dopo il traffico. Allora, Daniele Bellasio in studio a Milano, et di Bellasio. Questo è RadioTube, ma soprattutto è il Sabato del Villaggio, perché RadioTube è dentro il Sabato del Villaggio. Ma Marta Cagnola non è in studio, bensì a Sanremo. Ciao Marta, ci sei sempre? Ciao Daniele, sì, ci sono. È strano, quando non vedi l'altra persona appare lo so. E non sai dov'è. Io sono qua a Sanremo. Si sente. Dunque, tu devi sapere, abbiamo parlato nella prima parte della trasmissione di una persona che è stata molto social questa settimana, il sindaco di Roma Raggi. Tu devi sapere che noi maschietti soprattutto abbiamo notato la presenza social e televisiva di un'altra persona durante questa settimana. Ci sono state polemiche, poi c'è stato scrittura. È una collega giornalista bravissima di Sky che si occupa di sport, ma a Sanremo è andata per raccontare questo. C'è poca conoscenza di questa materia, perché si tratta di un reato, si tratta di un reato vero e proprio. E è giusto che tutti devono sapere che cosa si può e che cosa non si può fare con la tecnologia. Sai perché, Carlo, questo? E ci tengo tanto a dirlo, perché purtroppo queste cose succedono anche a ragazzi molto più giovani di me. Io ho 25 anni, ma ci sono ragazzi, ragazze veramente piccoli che hanno bisogno di essere tutelati, di essere protetti. E allora il mio messaggio va a loro, insomma. Siate coraggiosi, non abbiate paura, siate forti. Allora, Diletta Leotta, collega giornalista di Sky, tra l'altro quando si parla di Sanremo delle larghe intese non c'è solo Mediaset, Rai, Conti, ma appunto Diletta Leotta di Sky. E Crozza di Discovery. Brava. Lui. La 9, il 9, meno 9, sì, più esatto. 9. Vabbè. Allora, e Diletta Leotta ha raccontato il fatto che appunto le sia stato hackerato un account di un social, sono state trasmesse in rete delle foto private, lo ha raccontato dal palco di Sanremo, apriti cielo, perché aveva un vestito particolare da Sanremo, e quindi c'è stato un... Vabbè. Bello questo da Sanremo. Vabbè, perché doveva fare la scala, quindi una sua collega, per certi versi, una conduttrice televisiva, Caterina Balivo, ha detto: ma come si fa ad andare a parlare di privacy vestiti così? C'è stata un po' di polemica, la De Filippi l'ha difesa. Marta, raccontaci tu come hai vissuto da lì questa polemica. Allora, io l'ho vissuta in questo modo. Al momento il mio primo pensiero in questi casi è sempre: togliete i social network alle persone famose, esistono i social media manager per quello, ci sono figure professionali che fanno sì che chi abbia molto seguito possa essere assistito nelle proprie manifestazioni in rete, perché guarda, questa cosa la dicevo anche a Gianluca Nicoletti in Melog: se twitto io una bestialità è una cosa che può avere una certa eco, ma se la twitta un personaggio pubblico così noto come Caterina Balivo è, insomma, ha tutt'altra risonanza, quindi bisogna stare molto attenti. Nel merito sono convinta che ognuno si possa vestire come vuole, parlare di ciò che vuole, vestita nel modo in cui vuole, però magari non è il testimonial più incisivo per quella battaglia. Ok, ho capito la tua posizione. Io devo dire la verità, non mi sono fatto un'idea, anche perché non mi ha interessato moltissimo il dibattito. Ma possiamo passare una puntata senza Crozza? Ma stiamo scherzando, no. Mi dai perché un Crozza? Se era anche a Sanremo, originalissima la copertina, chi la fa a Sanremo? Crozza. Dopo Renzo e Lucia, Carlo e Maria, Manzoni direbbe i promessi sponsor. Sì, perché grazie a voi due questa settimana la raccolta pubblicitaria è così, scusa Maria, la raccolta pubblicitaria della RAI equivale a una manovra finanziaria. Pare che il ministro Padoan, per tranquillizzare Bruxelles, stia valutando di fare un Sanremo al mese per risalare il bilancio dello Stato italiano. Promessi sponsor è una definizione perfetta per questo Sanremo, Marta. Allora, Daniele, arrenditi. Piace anche a te Maurizio Crozza, non sono solo io fan di Crozza, che continua a dire che lo voglio io in onda. È stato bravo in questo festival. A me è piaciuto di più quando ha picchiato duro. Io sono un po' cattiva, mi piace quando picchia duro, quando li fa arrabbiare tutti. Quando dice: io non lavoro gratis, sono di Genova. Quello mi è piaciuto molto, col gesto dell'ombrello. Quella mi è piaciuta molto. E niente, anche se dopo questo festival il mio comico preferito è Francesco Totti, ma questo fa poco testo. Anche non solo come comico ti piace, secondo me. Comunque, andiamo avanti e parliamo di cose che riguardano molto i social network, giusto? Sì, dai, è un po' il nostro pane, perché anche l'anno scorso avevamo fatto un po' il punto di quelle che sono poi le classifiche social, perché le classifiche social sono particolarmente importanti, perché la visibilità dei cantanti è patrimonio importantissimo, anche proprio ai fini della classifica, perché la visibilità sui social ha qualche influsso sulla penetrazione del televoto. Sarà vero o non sarà vero? Secondo me qualcosa di vero c'è, ma come l'anno scorso noi andiamo a capire che cosa, quale classifica si può fare sui social con l'osservatorio sul Sanremo 2017 di Reputation Manager. Torna a farci compagnia a RadioTube anche quest'anno Andrea Barchiesi. Buonasera Andrea. Buonasera. Allora, voi avete analizzato, misurato la reputazione online, che è poi il vostro pane, degli artisti in gara a Sanremo. Avete fatto tutta un'analisi che ci ha portato a capire quali sono gli artisti più incisivi sui social, Andrea? Ma dal punto di vista dei social, il podio sarebbe Lodovica Comello, Clementino e Gigi D'Alessio. Quindi insomma c'è questo anche derby nel podio tra i due che sono relativamente vicini. Di conseguenza quindi diciamo che partono con un certo gradimento. Adesso la cosa interessante sarà vedere come questo si evolverà durante le serate. Certo, allora in una di queste sere, anzi per essere più precisa, durante la prima prova io ho fatto un tweet in merito all'esibizione di Gigi D'Alessio. Gigi D'Alessio mi ha retweetato e per mezz'ora non ho potuto più usare Twitter perché sono stata sommersa dai fan di Gigi che mi hanno messo like e retweet, perché io avevo confessato di essermi commossa per il testo della canzone di Gigi D'Alessio. Ma come mai Gigi D'Alessio è così popolare? Cioè è un po' non strano, però insomma non è esattamente il pubblico. Giusto, bella domanda. Anche a me ha sorpreso un po'. Beh, allora, anzitutto ha un pubblico più caldo e la rete ovviamente non si distribuisce in modo simmetrico rispetto alla razionalità, è molto più portata all'emotività. Di conseguenza quindi la cosa importante è che ha più esposizione temporale, perché ovviamente è un senior di questo mondo, non ha cominciato da un anno a cantare, ed ha anche un tipo di canzone che si presta tra virgolette al pubblico più emotivo internettiano. Emotività che purtroppo abbiamo visto anche in negativo, come nel caso che avete appena citato di Diletta Rotta, certo. In cui ovviamente la rete quindi è un qualcosa che pulsa, è un qualcosa di, non è razionalità, è un qualcosa di emozionale, per cui più si è emozionali più si ha risposta. Per quanto riguarda i conduttori, allora Carlo Conti si è convinto l'anno scorso ad aprire un account di Twitter che usa in maniera non attentissima, insomma un po' a tempo perso, non è un fan di Twitter. Maria De Filippi non ha nessun account social ufficiale, quindi lei non ha sue manifestazioni dirette sui social network. Sì, infatti la differenza, allora diciamo che tutte e due non ci sono nella pratica, nel senso che anche Conti, come dicevamo, ha ancora un account tra virgolette, pur avendo 63.000 tra fan e follower, è ancora claudicante come attività reale. Detto questo, Maria De Filippi, pur non essendo presente, è presente come? Perché una delle regole della rete è che non è che basta non parlare di sé che il mondo poi non parlerà di te, per cui significa che sei sempre presente, per cui Maria De Filippi pur non avendo un account è presente circa 2,5 volte il volume di Carlo Conti. Accidenti. Ma voi avete per caso come dire, studiato in passato l'effetto che un evento singolo molto concentrato ma molto forte come Sanremo produce su artisti, su personaggi televisivi? Si può dire qualcosa rispetto agli effetti prodotti da un evento così grande, così televisivo, sulla vita social, digitale degli artisti o dei conduttori? Sì, dipende molto da qual è l'impulso, nel senso che è un po' come se arrivasse un'onda, dipende quanto è grande quest'onda. Poi sappiamo che quest'onda ha un tempo di diciamo di scomparsa, chiaramente quindi lascia sicuramente un effetto, ma poi questo effetto nel tempo, se non viene risollecitato, tende un po' a sparire, come accade nelle stesse onde impulsive dei vari X Factor e così via. Vi sono dei personaggi che hanno vinto, hanno avuto una grande onda impulsiva, oggi vivono un po' del residuo di quest'onda. Beh, insomma, il vostro mestiere serve per analizzare ma anche per dare dei consigli, immagino. Hanno bisogno i personaggi pubblici, io lo dicevo così un po' per scherzo, un po' no, i personaggi pubblici di qualcuno che li guidi nell'uso dei social media? Purtroppo in realtà non è uno scherzo, hanno bisogno perché, come abbiamo visto nel caso di Caterina Balivo, l'onda emotiva attraverso un oggetto che ti disintermedia istantaneamente e ti porta al pubblico è qualcosa di estremamente pericoloso, perché poi non c'è buona la seconda. Ecco. Infatti molto spesso accadono fenomeni in cui si twitta qualcosa e poi la sera si ritratta, avviene a tutti i livelli, dallo spettacolo alla politica. Quindi serve, è come una mano, e bisogna fare attenzione perché basta veramente poco per distruggersi. Vero, verissimo. Grazie, grazie ad Andrea Barchiesi, fondatore e CEO di Reputation Manager. Marta, noi ci sentiamo dopo una piccola pausa. L'ho detta bene? Una piccola pausa, sì, ma sei diventato un conduttore bravissimo. Quasi quasi io resto sempre a Sanremo. Quasi quasi. A dopo. Ieri sera, prima di andare a dormire, ho postato un tweet infelice. Lo direi, ha scatenato tantissime polemiche, però l'errore è stato mio, quindi me ne dispiace, e se ho offeso qualcuno, veramente, mea culpa. Ascolto Gianluca perché sono socievole ma non sono social. Perché a Grosseto Radio 24 si sente bene. Perché quando corro vorrei essere un gabbiano. Ascolto Gianluca perché ci devo pensare. Perché mentre rifaccio il letto mi chiedo se anch'io sono tutta da rifare. Ascolto Gianluca perché quando mi lavo i denti penso alla mia vita. Devo mangiare di meno. Melog. Ogni giorno a domande inedite ricevo risposte autentiche. Melog, cronache meridiane di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle 12 su Radio 24. Radio Tube. Ci ritroviamo insieme con questo Radio Tube speciale qui dal Festival di Sanremo. Siamo in sala stampa e io però, Daniele, non sono da sola. Ho deciso che ti sostituisco. Quanti per il siete? Prossimo Radio Tube. Quanti siete? Siamo in tre. Sì. Ti sostituisco. Ti ricordi quella vecchia barzelletta che diceva sostituisco mia moglie di 50 anni con due da 25? Io intanto però non posso corrispondere in numero. No, tu sei molto più giovane, ma anche loro sono molto più giovani, sono due fighi pazzeschi. Allora, noi abbiamo parlato di loro un sacco di volte, yes, a Radio Tube, perché loro sono quelli degli esperimenti sociali. Ecco, io ne ho appena fatto uno. Sì. Guardavo i loro ultimi video in metropolitana, ridevo come un deficiente e tutti attorno mi guardavano come fossi matto. Allora, adesso dico subito chi sono. Sono Alessio Stigliano e Alessandro Tenace. Alessio e Alessandro, cioè The Show. Ragazzi, benvenuti a Sanremo. Grazie, grazie. Grazie. Ciao Marta, ciao Daniele. Mi scuso per la mia voce poco radiofonica, ma l'ho completamente persa in questi giorni. Ma no, secondo me è più radiofonica così, cioè un po' rocca, un po' virile. Sta morendo il compare, però sta diventando radiofonico. Ciao amici della notte. Della esatto, notte. Esatto, meno notte, esatto, esatto. No, diceva Daniele che stava guardando i vostri video in metropolitana, rideva da solo e tutti lo guardavano per capire perché stesse ridendo. Gli hanno fatto un TSO dopo, ci spiace se lo hanno portato via. Scusaci Daniele. Esatto. Ragazzi, cosa vi siete inventati qui a Sanremo? Ma perché siete venuti a Sanremo? Cioè, alla vostra età ancora si guarda Sanremo? In realtà si dovrebbe guardare Sanremo, perché è il Festival della Musica Italiana, e quindi è un evento, è un po' come il Natale. Oh, viene una volta l'anno, però Natale dura un giorno, qua dura un po' di più. Però ci sono personaggi mitologici anche qui, e come Babbo Natale abbiamo Carlo Conti. Io avrei fatto un parallelismo più con Gesù Bambino e Maria. Per gli atei, però, non va bene. Hai ragione. Io hai ragione. Sono per stato gli atei, più... Babbo Natale, tu sei stato più bravo, sì, largo. È vero. Ma i vostri coetanei, quelli che vi seguono, anche quelli più giovani, perché anche presso i ragazzini siete un fenomeno, quando avete detto Sanremo, hanno detto che cos'è, oppure c'è ancora del fascino? No, allora, il fascino del festival rimane, anzi, siamo rimasti anche stupiti dal fatto che moltissimi ci hanno detto che loro già lo guardavano. Altri lo hanno magari riscoperto, noi speriamo, grazie alla nostra presenza qui, speriamo di essere in qualche modo utili, perché... è un evento, come diceva Ale, importantissimo. Cioè, è un punto fisso alla fine per la televisione italiana, è una grande festa e secondo me è bellissimo l'umanità che raccoglie, a parte quello che succede nell'Ariston, noi stiamo vivendo il fuori dell'Ariston, si raccoglie un'umanità incredibile fuori dal festival, noi facciamo anche interviste tra i nostri format e quindi qua davvero è come essere nel paese del Bengodi, perché cioè, ci sono degli elementi, abbiamo incontrato sette i sosia di Pavarotti solo per dire questa cosa, cioè, c'è di tutto. C'è il clima di sagra di paese, carnevale. Ma poi ritornando alla questione dei giovani, noi insieme a Michele Bravi, la Comello e tante altre persone che lavoriamo sui social dove prevalentemente c'è un pubblico di giovani, li stiamo portando qui, quindi stiamo facendo un bel lavoro e quindi sui social si vede il riscontro. Ed è una cosa bella. Il festival di quest'anno è molto digitale, molto social, nel senso ci siamo noi, ci sono anche molti altri nostri colleghi che lavorano online, che sono stati chiamati appunto dal festival per collaborare. Secondo me è una mossa molto intelligente per avvicinare appunto non i ragazzini, ma anche la nostra stessa generazione, quindi anche gli universitari, che poi è il nostro target di riferimento, a questo festival, provare a renderlo un po' più appetibile per questa. Quanti anni avete voi? Due? Io 26. Io 25. Beh, da allora sono già grandi, Daniele, cioè 26, 25. Sì, no, la cosa bella, paragonando i video che hanno fatto da Sanremo rispetto ai precedenti, è che questa volta sono a contatto con delle persone, diciamo, un po' più grandi rispetto a quelle che di solito sono al centro dei loro esperimenti sociali. Che cosa hanno visto di nuovo, appunto, nell'incontrare persone, insomma, a Sanremo di questi tempi, a febbraio, a seguire il Festival di Sanremo, di solito non ci sono i ragazzi universitari di cui si parlava prima. Che cosa hanno notato di diverso rispetto agli altri esperimenti sociali? Però noi qua non stiamo facendo proprio i nostri classici esperimenti sociali, stiamo facendo delle interviste che poi è un esperimento sociale anche quello, però non lo definirei così, ma in realtà le interviste che facciamo anche a Milano, noi ci andiamo un po' andiamo a cercare quel target lì, che è magari da persona adulta, che è più facile, diciamo, far cascare in una candy camera a telecamera palese, perché l'intervista alla telecamera si vede. Certo. Però secondo me l'unica vera differenza è che a Milano dobbiamo andarli a cercare noi, qui vengono da soli, nel senso il festival cioè, è un po' una grande calamita per i migliori personaggi secondo me sulla piazza italiana, e quindi vedono la telecamera, vedono che siamo qui per la Rai e quindi si lanciano, inconsapevoli di quello che poi noi gli chiederemo, perché ovviamente poi noi ce la giochiamo come possiamo, però c'è proprio questa anche ricerca dell'apparire, ma sempre secondo me è una ricerca genuina, cioè sempre anche sono molto autoironiche le persone anche che si propongono. Daniele, hai domande? Ma lo sentono? No, una curiosità, lo sentono un po' il peso, la responsabilità di essere gli eredi di Nanni Loi? Sanno, hanno visto gli esperimenti di Nanni Loi? Allora, li abbiamo visti, assolutamente, diciamo, fanno parte del nostro Pantheon, insieme poi alle rivisitazioni italiane che ha fatto per esempio anche Jeep, non so se ve lo ricordate, ai tempi delle Iene. Però Nanni Loi è il vero capostipite, però Nanni Loi era un regista, era un attore, noi siamo due pirla in confronto, cioè non ci cioè l'eredità è abbastanza pesante, no? Certo, quando non ci sentiamo eredi, proviamo a fare quello che faceva lui nel lato candid camera, però cioè voglio dire sì, applicata sui social network, esatto. Quindi già quando pensiamo alla candid camera anche poi in montaggio gli diamo una chiave di lettura che va bene per i social network, poi quando dobbiamo farle per la televisione gli diamo una chiave di lettura per la televisione, perché sono due linguaggi completamente diversi, quindi le abbiamo adattate al mondo del web, al mondo social. Daniele, il nostro cavallo di battaglia, il fatto che non si possa riportare esattamente in televisione quello che va sul web e viceversa, vedi, lo dicono anche loro. Bravi, quindi, no, perché noi sposiamo questa battaglia. Ecco, sposano questa battaglia. No, la sposiamo, è un endorsement completo a questa visione del mondo, perché purtroppo capita spessissimo di prendere asetticamente persone che lavorano online e cercare di riproporre quello che fanno online in televisione e non funziona, e questo è controproducente soprattutto per noi che lavoriamo online. Bisogna capire che ogni mezzo ha il suo linguaggio e bisogna imparare a tradurlo, secondo me. E qui, se posso fare una critica, c'è anche un po', cioè c'è da criticare la televisione stessa, nel senso spesso è colpa della TV che non ha un'attenzione a tutelare questi ragazzi che magari sul web sono molto bravi, ingenuamente arrivano in televisione e vengono sbattuti bisogna trovare la quadra. Ma loro nel frattempo il festival lo guardano? O stanno solo fuori? Gli piace? A me sì, io lo sto guardando, mi è piaciuto molto. Il momento più bello è quando Robbie Williams ha limonato. Stavo aspettando, infatti. Cioè. Con Maria De Filippi, che lì mi sono sentito all'apice. Però noi siamo molto contenti perché ha esordito un nostro amico, Michele Bravi, che ha cantato. E secondo me ha portato un pezzo moderno, a differenza magari di molti altri, ma... Però noi siamo imparziali, sì, no, però... non è un endorsement solo per Michele. No, assolutamente, però lo sanno tutti che è nostro amico, quindi sarebbe stupido nascondere il fatto... Ma sì, bravi. A prescindere dal fatto che sia nostro amico, abbiamo apprezzato. Però io mi sono innamorato della Mannoia, una grande donna, l'abbiamo intervistata ed è davvero, davvero, ma penso veramente... altissima, come donna, non come altezza fisica, come spiritualità e come intelligenza, veramente oltre immensa. Ad essere racchiusa in un involucro comunque bellissima, adesso io non vorrei dire sempre cadere sempre, però comunque una e poi è simpaticissima, cioè una birra, io sogno adesso una birra con Fiorella Mannoia, sì. Perché cioè a te, noi facciamo le interviste ai cantanti dopo, cavolo, lei ci ha tenuto banco, cioè si è infatti le grasse risate, sai, molto spesso magari un cantante arriva con ancora la tensione del festival, non ha voglia comunque di... noi lo prendiamo anche in giro magari con alcune domande che arrivano direttamente online. Lei cioè è veramente la numero uno in assoluto. E poi disponibile, perché una sua collaboratrice voleva un video saluto per suo figlio fatto da noi. Lei ha preso il cellulare della collaboratrice e si è messa a fare la cameraman. La Mannoia, cioè, ci ha fatto da cameraman, ragazzi, questo va nel curriculum. Ci siamo, cioè, fatti un selfie dove lei ci ha fatto le corna, cioè è veramente geniale. Siamo innamorati di Fiorella Mannoia. Siamo innamorati di tutti, stiamo facendo i lecchini con tutti, ragazzi, cioè vabbè. Ragazzi, invece, intanto qua suona tutto, chissà cosa sta succedendo. Le dirette YouTube, YouTube ha aperto le dirette ai canali, quelli con un po' di iscritti, 10.000. Quelli fighi. Quelli fighi, non ma quelli scarsi. No, stiamo scherzando. No, assolutamente. Noi siamo contentissimi. Noi già usavamo le dirette di YouTube. Forse stanno venendo a prenderci tutti. E finalmente vanno a prendere Marta. E finalmente vengono a prendere. Erano anni che lo aspettavo questo momento. No. Possiamo farcela. Non è il TSO di prima. No. Possiamo farcela. Allora, ragazzi, dirette di YouTube aperte a canali con più di 10.000 iscritti. Mi spiegate un po' l'importanza di questa cosa? Allora, le dirette sono importantissime su YouTube. Noi già le utilizzavamo dal punto di vista del computer, perché si potevano già fare le dirette su YouTube, le potevi fare tramite PC. Ora sono arrivate anche su mobile, e quindi la possibilità di poterle fare per strada in qualsiasi contesto è assolutamente efficace. Insomma, ti mette in contatto diretto, come dice poi la parola diretta, con il tuo pubblico, puoi parlare. Il fatto che puoi farle, non sei più vincolato a stare a casa, ad avere un PC, ma si può fare dal cellulare, rende questo mezzo ancora più utile. Ma sta morendo la televisione in questo modo? No, lo chiedo a voi, visto che... Questa è una cosa che dicono tutti, ma in realtà no, perché sono due mondi diversi. Uno può guardare la televisione e guardare il web, cioè secondo me sono due percorsi paralleli. Poi noi in questo momento stiamo parlando su una radio, le radio non sono assolutamente morte quando è arrivata la televisione, anzi... Quindi nel senso, sono tutti mezzi che convivono, convivranno, la televisione si sta evolvendo per fortuna, l'abbiamo detto prima, il Festival di Sanremo ha finalmente per il secondo anno già strizza l'occhio al mondo digitale, al mondo... Adesso col tasto blu della televisione c'è Rai Play, quindi nel senso anche la Rai sta arrivando, ci ha chiamato, noi speriamo ci chiami ancora. Ecco, un appello. Daniele, a me sono piaciuti un sacco questi due ragazzi, anzi beh, adesso sono fantastici. Io sono mi faccio una foto con loro e te la mando. Perché guarda, sono anche, che invidia. Sono anche due bei ragazzi. Non avevi ancora detto che eravamo belli, no. Grazie, ti ringrazio. No, l'aveva perché detto. Perché alla radio non detto. Si vede, alla radio non si vede. Allora, io li invito a venirci a trovare in radio. Noi ci sentiamo tra pochissimo, Daniele. Evviva, viva the show! A tra poco! Radio Tube. Come passa il tempo quando si parla di Sanremo. Marta Cagnola da Sanremo, ci sei? Quanto ti è piaciuto stare in studio da solo per tutta questa puntata così, lasciandomi qua in Liguria, in Riviera? Ma sai che le coronarie, sei rassicurante, di No, alla fine sei rassicurante di persona. Ma noi dobbiamo delle risposte, credo, eh. Sì, perché abbiamo fatto il quiz hashtag non si vince niente con il nostro super esperto Eddie Anselmi, che è tornato qui accanto a me. Siamo sempre nella sala stampa dell'Ariston Roof qui al Festival di Sanremo. Io non so quanti ascoltatori si siano messi alla prova per risolvere i quiz della storia del Festival di Sanremo con Eddie Anselmi, ma allora proviamo a capire, rifacciamo le domande. Daniele, chissà se tu hai delle risposte. Sì, allora, sono pronto. Eddie, prima domanda. Allora, qual è l'artista più anziano ad avere mai vinto il Festival di Sanremo? Daniele, secondo te? Allora, io dico Massimo Ranieri. Urca! Massimo Ranieri, quando ha vinto il Festival di Sanremo, non aveva nemmeno 37 anni. Capito, noi pensavamo fosse ricchissimo. La prima volta! No, ma non scusa, che l'unica. Non ha vinto... L'ha vinto solo con Perdere l'amore, ma era giovanissimo, aveva 37 anni, Daniele. Cioè, e invece? Ma questo era di dolore? Era di dolore, sì, perché vuol dire che io sono molto invecchiato. Ma andiamo avanti, passiamo oltre. No, invece, invece? Invece no, l'artista più anziano, l'uomo più anziano ad aver vinto il Festival di Sanremo è Roberto Vecchioni, che ha vinto nel 2011 a 67 anni, 7 mesi e 25 giorni. Il La professore. Signora più anziana, viceversa, è Anna Oxa. Non diciamo l'età. Nel 99, diciamo quella del 99. Ok. Nel 99, quando ha vinto, aveva 37 anni, 9 mesi e 30 giorni. Però entrambi io so il più giovane. Il più giovane ad aver mai vinto? Io lo so. Prego. Ad aver vinto? Ad aver vinto. Laura Pausini. No. No, Laura Pausini non ha mai vinto il Festival di Sanremo. Ha vinto tra i giovani che aveva 19 anni. La più giovane... Io lo so. 1964. 1964, esatto. Gigliola Cinquetti, 16 anni, un mese e 12 giorni. L'uomo più giovane, invece è recente, è Valerio Scanu nel 2010 con 19 anni, 10 mesi e 10 giorni. E batte di 2 giorni il record di Bobby Solo del 65, 19 anni, 10 mesi, 12 giorni. Hai capito? Fantastico. Ah, Scanu, che tra l'altro è il preferito di Marta, io è uno dei preferiti di Marta. Io voglio tanto bene, io Valerio ho una grande passione. Allora, comunque le mie risposte erano con riserva, quindi vale. Con riserva. La canzone in francese. E poi avevo chiesto anche il più giovane a esibirsi mai sul palco tra i big. Io ho un'idea, ma non so. Allora, il big più giovane in assoluto è stato Luis Miguel, che nell'85 aveva poco meno di 15 anni quando partecipò. Noi ragazzi di oggi. Noi ragazzi di oggi. Mentre in assoluto ci fu una tale Alina De Idda, certo, che nel 2003 partecipò. Lei era nata nel giugno 1990, quindi non aveva neppure compiuto 13 anni. Oggi non sarebbe possibile, ci sono diversi limiti di età. Capito, Luis Miguel, ciao Miguel Bosé, sono ribambita da una settimana di Sanremo. Luis Miguel. Però la suspense anche in regia è sulla canzone francese. Lo vedo negli sguardi, sì, di Christian. Ma sai che io, che insomma un po' di Sanremo so, ma non mi viene in mente chi ha cantato in francese. Allora, l'ultima e credo l'unica canzone mai presentata in concorso in lingua francese al Festival di Sanremo è Ping Pong, presentata da Plastic Bertrand nel 1982. Tu mi rompo alla balla. Ping pong, ping pong. Vabbè, ma questo lo sanno in tre. Era un twist. Ma non esiste. Io vado a controllare perché non è vero. Sì, ping pong, ping pong. Ah, fantastico, fantastico. Erano gli anni dove si poteva ancora cantare in lingue diverse dall'italiano e due o tre artisti per festival esercitavano questa possibilità. Straordinario. Allora, Eddie, non so come dirlo. Diciamo qualcosa di questo. Ecco, allora non so come dirti, Eddie. Daniele non è molto contento di questo Festival di Sanremo. Allora, no. Daniele, apri il tuo cuore, racconta quello che pensi allora, a Eddie. Ecco. Lo dico semplice. È una trasmissione televisiva perfetta, ma non ci sono né le canzoni né i cantanti. E soprattutto è scomparso il Festival della Canzone, cioè è un perfetto format televisivo, tutti i momenti di intermezzo tra i cantanti in gara sono fantastici, e il problema è che i cantanti in gara e le canzoni in gara un po' scompaiono nel format e un po' forse non sono all'altezza. Basta, l'ho detto. Cosa ci dice il nostro super esperto Eddie Anselmi? Siamo in un momento di maniera, siamo in un momento di manierismo, siamo in un momento di riflusso creativo, un po' come quello che attraversò la canzone italiana dagli anni 30 agli anni 50, chissà se in un prossimo futuro tornerà, arriverà qua un Domenico Modugno a cantare la nuova Volare. Questo è vero. Sul format televisivo posso dire la mia, perché secondo me è un bellissimo format televisivo, è un grandissimo buffet ben organizzato, diciamo che la cucina lascia un po' a desiderare, è un buffet di piatti crudi molto buoni, molto belli, con dei gran belli ingredienti. E adesso tocca a Marta. Allora, io, se posso dire un po' la mia, penso che non ci siano tante canzoni di spicco, penso che ne rimarranno poche, ma quelle tre o quattro potremmo portarcele avanti per un po' di tempo. Credo che qualcuna rimarrà per parecchi mesi, non tante, ma qualcuna rimarrà tanto. Invece, per quanto riguarda la confezione televisiva, quando metti tante cose una dietro l'altra, ottieni un effetto così quasi psichedelico. Bisogna mettersi lì a vedere cosa è stato davvero bello. Ci sono anche lì, secondo me, due o tre momenti che magari tra qualche anno potremmo vedere a teche. Poi, secondo me, non tantissime, ma qualcuno sì. Se posso dire, c'è stato anche un problema, ma barra opportunità, nella scelta dei super ospiti, nel senso che i super ospiti quest'anno erano dei potenziali anche grandi concorrenti, mentre di solito il super ospite era un po' più strano. Cioè, se tu prendi Tiziano Ferro o Giorgia, cioè, te li potresti anche immaginare in concorso, no? E questo forse un po' oscura il resto. Mia mamma mi ha chiesto il codice per votare Tiziano Ferro. La mamma di Eddie voleva il codice per votare Tiziano Ferro, ma possiamo darle torto? Vedi. Allora, io posso fare a Eddie la domanda di rito in questi casi? Allora, chi secondo te, quale sarebbe il cantante perfetto per l'Eurovision di quest'anno? Tra i cantanti in gara io dico tre nomi. Posso dire tre nomi? Allora, il primo è Sergio Silvestre. Perché si noterebbe, perché come si è notato in Italia, perché è un cantante dalla carriera italiana. Se fosse uno sportivo potrebbe giocare nella nostra nazionale, perché tutta la sua carriera è stata italiana, anche se è ormai americano, figlio di haitiano e messicana, e quindi lui ha una presenza di palco, una presenza scenica, una capacità vocale che sicuramente, come ha tirato giù l'Ariston, tirerà giù anche la Exhibition Hall di Kiev. La seconda è Elodie. Elodie presenta una canzone nel migliore stile di Mia Martini, un'apertura melodica nel ritornello che, pur essendo totalmente moderna, è anche del tutto tradizionale e dice Italia in tutte le note, in tutti i passaggi vocali. E il terzo, probabilmente sono indeciso sul terzo, perché da un lato Francesco Gabbani farebbe divertire e ballare, anche se rischierebbe di pagare qualche cosa in termini di classifica. Egualmente un buon racconto potrebbe essere fatto a proposito di Ermal Meta, che ha una canzone divertentissima che cresce ascolto dopo ascolto, che però nello stesso tempo probabilmente il pubblico europeo non riuscirebbe a metabolizzare troppo in fretta. Allora, voglio solo sapere da... E io dico Chiara. Ah, ecco, infatti volevo solo sapere da Daniele Bellasio qual è la sua canzone, la tua è quella di Chiara. Chiara, io dico Chiara. Vabbè, saluta tu da là, dai. Saluto io da qua, allora. Intanto saluto Eddie Anselmi, che è stato con noi in questa puntata, ovviamente, qui dal Festival di Sanremo. Allora, ringrazio Cristian Goldoni Mitico. In redazione. Ringrazio tutti coloro che sono stati in regia e si sono alternati per questo Sabato del Villaggio. Grandi. Grazie a te, Daniele. Noi ci ritroviamo sabato prossimo. Torna! Io sarò a Milano. Ci sei anche tu? Torna, tu torna, io forse torno, vado torno. Io forse vado a Trieste, ma tu torna, ciao.